Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ben ritrovati su Radio 24 e ben ritrovati Ivana Di Martino. Ciao, buona domenica a tutti. Allora, oggi per cambiare registro parliamo di triathlon, perché sabato scorso la Coppa del Mondo di triathlon appunto ha fatto tappa in Italia, per esattezza a Cannigione in Sardegna. Le emozioni, come si dice, non sono mancate, anche perché sul podio, il podio si è tinto un po' di azzurro con il terzo posto di Verena Steinhauser, che oggi ha il telefono con noi. Ciao Verena. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, che effetto fa rimettere piede sul podio di Coppa del Mondo? Rimettere, diciamo che è solo il mio quarto podio, quindi non ci si abitua mai, anche vale sempre, quasi sempre come il primo, però specialmente farlo in Italia è un'emozione incredibile. E soprattutto quest'anno? Quest'anno che è già tanto che possiamo gareggiare, quindi possiamo veramente ritenerci fortunati di sta cosa. Poi il podio, insomma... Mancano ancora le parole. E che gara è stata? Ah, la gara è stata molto dura, vi dirò con tutta sincerità, molto dura, specialmente il percorso ciclistico, che c'era una salita veramente tanto pendente, anche abbastanza lunga. Erano tre giri con una salita di 1,5 km. E l'ha reso abbastanza parecchio impegnativa, diciamo così. Poi anche la corsa era leggermente vallonata e dopo la bici così si fa sentire. Però insomma sul finale ci è dato dentro. Sul finale sì, ci è dato dentro. Vi dirò la verità, mi ha aiutato un po' il vento e mi sono ritrovata dietro e quindi sono riuscita a risparmiare un po', dato che c'era il vento contro. E è lì che poi appena alla fine, diciamo che ci ho provato, ci ho creduto fino in fondo, grazie a Dio alla fine. Quindi hai fatto comunque una frazione di corsa molto molto forte. Sì, oddio, sono partita molto forte, poi ho avuto un po' un calo in mezzo, che c'erano due o tre salitine che mi hanno veramente distrutto le gambe. E poi, come detto, c'era un tratto con un leggero vento contro dove mi sono ritrovata dietro, quindi sono riuscita un po' a risparmiare rispetto ovviamente alle ragazze davanti a me, e me la sono giocata poi alla fine in volata. Gli ultimi 200 metri più o meno me la sono giocata per il terzo posto. Hai fatto un po' gara tattica, quasi a mezzo fondista. un po' bisogna provarsi. Ricordiamo, era un triathlon sprint, per cui 750 metri a nuoto, 20 km in bici e appunto i 5 km di corsa finali. Esatto, sì. E quindi su 20 km hai fatto 5 km, ben 5 km di salita, quindi non è poco. Infatti è la prima volta che gareggiamo lì a Cannigione. Ho fatto tre volte la Coppa del Mondo a Cagliari e quest'anno è la prima volta che l'hanno fatta lì la gara. Però vi dirò, è una forse delle gare più dure del circuito mondiale. Verena, con te c'era anche la tua amica avversaria Angelica Olmo, che è arrivata quinta. Come gestite l'amicizia in gara? Vabbè, in gara ovviamente siamo avversarie, si aiuta finché si può, e infatti in bici ci siamo aiutate e poi di corsa ce la giochiamo fino in fondo, poi chi ne ha di più ne ha di più. E che anno è stato invece questo 2020 fino a qui? Un anno difficile, sicuramente difficile di testa più che altro, perché quando ci hanno detto che sono state cancellate le Olimpiadi è stata una bella mattonata. Perché tu eri qualificata, non ricordiamo, per le Olimpiadi. Sì, ero qualificata, ci mancava ancora fino a maggio, insomma continuava la qualifica olimpica, e poi il posto c'era. E alla fine uno si allena, diciamo, non solo per quello, ma il grande obiettivo ovviamente è quello. Quindi... E poi sentirsi dire che non si fa, insomma. È stato difficile mantenere comunque alta la motivazione, perché non c'era un obiettivo importante. Ma in generale non c'erano proprio obiettivi, perché non sapevamo mai, a parte che abbiamo fatto l'inizio anno allenandoci, e magari una settimana dalla gara ti dicevano che non si faceva la gara, quindi anche lì ogni volta ti alleni e non si fa. Allora riparti, vabbè, per la prossima ti alleni e non si fa. E già quello è stato bello duro. E poi ovviamente quando poi ci hanno detto non si sa quando si rinizia, uno si allena, però sì, dopo un po' è anche che cosa mi alleno a fare. Tu nel frattempo sei ottava nel ranking mondiale, no? Sì. E le gare di quest'anno non valgono per questa classifica, mi dicevi? No, purtroppo per questa, cioè purtroppo per fortuna, dipende dai punti di vista, non valgono. Hanno deciso di, diciamo, congelare il punteggio a fine 2019, okay, per poi riprenderlo nel 2021. Che questo vale anche per la qualificazione olimpica, insomma. Questo sì, vale per qualsiasi, sia per il ranking mondiale che per il ranking olimpico. Allora, Verena, noi qui a Personal Best parliamo sempre di corsa. Sappiamo però che non è proprio la tua frazione preferita. No, oddio. Qual è che ami di più? La bici, di solito la bici, quella che mi piace più. Quando non c'è la salita. Perché faccio un po' meno fatica magari rispetto alla corsa o al nuoto. Ma quindi cosa fai? Cerchi di migliorarlo un po' la corsa o compensi col resto? No, diciamo che già dall'anno scorso a quest'anno ho fatto un bel salto di qualità e ho aumentato parecchi chilometri di corsa settimanali che faccio in allenamento, quindi già quest'anno ho fatto un bel salto. Poi immagino che voi lo sappiate meglio di me, comunque a piedi non è così facile migliorare velocemente, perché il rischio infortunio è parecchio alto, quindi piano piano si cerca di migliorare. E qual è la tua settimana tipo? Quanto ti alleni? Mi alleno tanto, diciamo così, mi alleno tanto perché nelle settimane di carico mi alleno più o meno 30 ore a settimana. Ah, mamma mia, mi sento già stanco al pensiero. è proprio un lavoro. Vabbè, sì, poi faccio parte del gruppo sportivo della polizia, sì, e quindi è in tutti gli effetti il mio lavoro. È il tuo lavoro. E rimane un po' di forza per fare altro? Ma quello resta sempre, sono una ragazza comunque di 26 anni e faccio una vita anche quando si può più normale possibile, quindi mi piace anche uscire, trovare gli amici, andarmi a bere un caffè, farmi le passeggiate come tutte le persone normali di questo mondo. E tu infatti hai 26 anni e sei giovanissima, quando hai iniziato a fare triathlon? Ho iniziato più o meno a 12 anni, quindi già un bel po' che lo faccio, ma ho iniziato con l'atletica grazie alla mamma che correva da sempre, mi ha portato a fare atletica e poi ci sono, diciamo, un po' caduta nel triathlon. Ma nel senso che hai provato un po' così a iniziare a nuotare, poi in bicicletta e poi ti hanno detto ok, facciamo triathlon così? No, in teoria ho iniziato a nuotare perché avevo un problema alla schiena. E quindi vai a nuotare, ma proprio non mi piaceva e tuttora vi dirò che è la frazione che mi piace meno. E non volevo lasciare l'atletica e quindi un po' di nuoto dovevo farlo. L'atletica ho continuato a farla, in bici da Bressanone dove vengo io devi andare per forza. E quindi poi la mia allenatrice di allora era anche lei una ex triatleta. Mi ha detto, ma non è che vuoi provare di qua e di là, ci ho provato e ci ho preso gusto. Però sempre brevi distanze, o non so, ti piacerebbe fare un Ironman prima o poi? Domanda difficile. Ecco, vedi. Perché per adesso vi dirò no. Se mi chiedi adesso vi dico no, sicuramente non lo farò mai, ma so benissimo che poi prima o poi, comunque andando avanti con l'età, crescendo, e ti butti comunque più sulle distanze un po' più lunghe, perché gli sprint agli olimpici comunque sono tanto veloci con l'età, magari forse intanto iniziamo con un mezzo Ironman, infatti. Poi l'Ironman aspettiamo un altro po' quando sarai grande, come dico io, o continuiamo da dove siamo rimasti, diciamo, per ora. Tu dicevi sei di Bressanone ma vivi a Pescara, immagino anche per il clima. sì, mi sono trasferita inizialmente perché mi sono fidanzata con un ragazzo di qua. Mm. E poi qui vi dirò, per l'allenamento va benissimo, c'è il mare, c'è la montagna. E il clima ovviamente ci permette di pedalare quasi tutto l'anno, quindi sono rimasta qua. E dove si corre a pescare invece? A me piace il lungo, come di solito a tutti piace la pineta, lo sterrato, così. Ecco, io sono l'unica che corre sempre su asfalto, quindi per me il lungomare è proprio una gioia. Sei come me, allora, anch'io amo il lungomare, più che altro che così, non so, lo vedo e mi rincuore, è più bello. Infatti. E invece, insomma, l'inverno si avvicina. Verena, qual è l'inverno, gli allenamenti tipici dell'inverno del triatleta? Vi dirò che il mio inverno di solito è abbastanza corto, visto che più o meno a novembre di solito mi fermo almeno un paio di settimane. E finisco la stagione e mi fermo completamente. Okay. Esatto, sono completamente in vacanza e non tocco niente, né carte, né bici, non voglio vedere la piscina, sono proprio in vacanza. Che bello! E poi il dicembre me lo godo un po', perché torno anche un po' a casa a Bressanone, sto un po' in famiglia. E di solito gennaio e febbraio lo faccio alle Canarie, di solito a Fuerteventura, per iniziare la preparazione, visto che noi la stagione di solito la iniziamo a marzo, è importante comunque continuare l'allenamento e lì il clima è ottimale. È la meta tipica, no, per i triatleti, insomma, soprattutto per i professionisti, perché c'è un bel asfalto, c'è un bel clima. Anche se dicono che c'è un sacco di vento, però vabbè, quello poi ci si abitua. Sì, ce n'è tantissimo, ve lo assicuro, ce n'è tantissimo, però ci si fa l'abitudine. Tu invece sei stata campionessa italiana di triathlon nel 2016, ci sarà il campionato italiano quest'anno a San Benedetto del Tronto, quindi non lontano da dove vivi, il 25 ottobre, ma non andrai lì e salterai invece direttamente a un'altra tappa della Coppa del Mondo a Valencia, no? Sì. Salterò il campionato italiano, visto il formato che comunque, avendo fatto adesso la gara ad Arzachena, puntando la Coppa del Mondo a Valencia, non riuscirei a prepararlo adeguatamente. E per come sono fatta non mi piace gareggiare giusto per. No. Quindi piuttosto la salto, anche se mi dispiace, perché ovviamente il campionato italiano è sempre vale sempre, sì, è sempre bello farlo. Però bisogna fare dei sacrifici. Che gara sarà quella di Valencia? Quella è un'ottima domanda, visto che ad oggi stiamo ancora aspettando i percorsi. Però dovrebbe essere, allora, sicuramente una gara su distanza sprint e immagino sia anche una gara abbastanza piatta. Di solito la rendono in bici, un po' più tecnica, mettendo delle curve, però non so dirvi di più, visto che non so ancora niente. Non si sa ancora nulla. Speriamo non ci siano salite questa volta, insomma. A me, vi dirò, anche se a me piacciono di più le salite, visto che sono abbastanza piccola e leggera, quindi mi viene un po' più facile la salita che la pianura. Beh, dopo questo terzo posto poi di domenica, insomma, della scorsa settimana... Ti sei allenata bene. Decisamente sì, quello sì. Che percezione hai invece del triathlon? Insomma, è uno sport che sta prendendo sempre più piede, no? Ci sono un sacco di amatori anche che si avvicinano a questa specialità. Sì, sì, si vede sempre di più. Purtroppo quest'anno si è un po' bloccata questa crescita, perché è anche un po' difficile comunque organizzare le gare così con la storia del coronavirus. Però ma spero tanto che prenda sempre di più piede, perché comunque anche nel giovanile soprattutto, visto che comunque è uno sport sano e vario. Sì, soprattutto perché ora ormai la gente si approccia al triathlon, soprattutto i ragazzi più giovani, già direttamente con il triathlon, senza passare magari dal nuoto. Sì, sì, come dici tu, una volta piuttosto c'era il nuotatore che iniziava a fare triathlon, o il podista che iniziava un po' a fare triathlon. Adesso lo vedo anche con la squadra di ragazzini che abbiamo qui a Pescara, iniziano proprio già a 6-7 anni col triathlon. Deve essere bellissimo vederli. È un gioco per loro, sì. E così deve essere. Infatti. Così deve essere. E in chiusura, tu incontrerai un sacco di amatori, che consigli ti chiedono? Ma alla fine ognuno chiede... vuoi sapere cose diverse, gli allenamenti, come gestirli, è così, ma secondo me soprattutto per gli amatori e per i ragazzi, che alla fine vale la stessa cosa, deve essere un divertimento e uno svago, anche perché prenderlo troppo sul, cioè prenderla sul serio ma con divertimento, altrimenti è troppo faticoso sicuramente. Sì, perché comunque richiede per l'amatore tante ore di allenamento comunque, no? In tutta la settimana, quindi cioè, se non la prendi come divertimento poi diventa un lavoro e non va bene. Certo, alla fine sono tre sport che sono da allenare, e quindi è meglio prenderlo veramente come uno svago, come un divertimento, che l'allenamento viene molto più facile. Alla fine non ci vuole tanto, basta trovare la compagnia giusta. Qual è la parte dell'allenamento che preferisci? Il caffè post allenamento. Molto bene, siamo d'accordo allora. Inizierò a fare triathlon. Grazie mille Verena Steinhauser, a presto, in bocca al lupo. Grazie a voi. In bocca al lupo. E grazie a Gianmarco Ferronato in regia. Noi anche per oggi ci fermiamo qui, ci risentiamo domenica prossima sempre alle 6.30, alle 16.15, quando volete ci trovate in podcast. Buona giornata. Buona giornata. Personal Best. Tutte le puntate sono disponibili su radio24.it. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.